so che fare. Mi vedo già i miei parenti all'ospedale. Dal mio pertugio mi piange il cuore nel veder quel che fanno le persone. Il mondo è grigio, non è più blu. Maronna mia, non ci salvi neanche tu. Si deforesta, poi si fa festa. La petroliera in fondo al mare resterà. Inquinando, guidando, pagando, comprando, mangiando, ingrassando, guardando un TG, trafficando, pulendo e sporcando, parlando e parlando, ma il dodo dov'è? La vita presto vincerà, da questa terra l'uomo sapiens scaccerà. E tanti auguri e felicità al topolino che qui solo resterà. Male, mi gira tutto, mi vedo già i miei parenti vestiti a lutto. Un altro mondo si potrebbe fare, ma l'altro mondo tutti qui si va a finire. Nuvole grigie nel cielo blu, caro Mazinga, non ci salvi neanche tu. Con ottimismo verso il progresso si marcerà, si mentirà la verità. Spiando, facendo e rompendo, ridendo e piangendo, mangiando per tre. Ho bevuto e fumato, fumato e bevuto, cantando vi lascio così. La vita presto vincerà, da questa terra l'uomo sa che scaccerà. E tanti auguri e felicità al topolino che qui solo resterà. Qui solo resterà. E tanti auguri e felicità al topolino che qui solo resterà.